credi che mi sia servito. Vivere e sbagliare sempre, credi che abbia ormai imparato. Guarda come vivo oggi, sembro l'uomo più sicuro, gioco ancora con me stesso. Den, den, den, den, den. Passa il tempo e non la rabbia d'essere uguale a tu. Così sciocco ed imperfetto. Den, den, den, den, den. E forse solo una volta sono riuscito a non sbagliare con te. Basta non aver sbagliato, non mi accontento con te. Non so più cos'è un'idea, io che ne avevo tanto. M'han fatto crollare tutto. Den, den, den, den, den. Dove andrò a rifugiarmi per non essere calpestato solo fra le tue braccia. Den, den, den, den, den. Certe volte ho proprio voglia di buttare tutto all'aria, ma sarebbe un altro sbaglio. Den, den, den, den, den. E forse solo una volta sono riuscito a non sbagliare con te. E non mi basta non aver sbagliato, non mi accontento con te.